Amici sportivi, quasi tutto pronto, vedete, per l'ingresso in campo, erba un po' alta, stile Real Madrid di Mourinho. Tutti convocati, weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'importante è che sono comunque sono arrivato, sono molto felice, quindi questo era importante per me, tornare in Italia. Hai parlato con Inzaghi? sì, l'ho sentito al mister. Arrivi in ritardo, di 6 mesi, ma arrivi almeno. Sì, ho fatto il giro largo, dai. E questo era quello che volevo comunque pure in estate, quindi per me essere arrivato qui al Milan è una cosa molto importante, è un punto d'arrivo. Abbiamo avuto un arrivo che a me ha fatto molto piacere, perché inseguivamo Cerci da 3 anni, finalmente è arrivato, mi ha fatto già una promessa scioccante che si taglia la barba per la prima partita. Ci racconti com'è andata sta storia con l'Inter, Milan, Inter, Milan, alla fine hai scelto Milan, è andata così? Fatemi andare, non posso, cioè, queste sono cose private, comunque io ci tenevo a vestire la maglia rossonera e le altre cose sono cose che dicevate voi e sono felice così. E certo, lo lasciamo andare Cerci o no? 800 24 00 24, in diretta fino alle 19 nell'ultima domenica senza calcio qui da noi, perché altrove si gioca. Ad esempio il Manchester City è sotto alla fine del primo tempo contro lo Sheffield in FA Cup, sta pareggiando il Manchester United con lo Yeovil, sta pareggiando anche il Chelsea, sta pareggiando Real Madrid, appena iniziata Valencia-Real Madrid e ve la racconteremo. Noi siamo ancora in vacanza, noi ci accontentiamo del nostro piccolo mercato, che poi tanto piccolo non è stato in questi primi giorni, anzi non è nemmeno partito, ma si è lavorato molto sull'entusiasmo. Thanks for the welcome. It's crazy. And I'm happy that I'm here today. And let's play a good season. And Forza Inter. Sempre che Podolski sia uno di loro o non sia uno di quegli altri, in questa storia meravigliosa per cui Podolski, juventino, ma juventino vero, di quelli che nel 2007 sfotteva l'Inter per il suo scudetto, Enzo Bucchioni, ciao! Ciao, bentrovati, buon pomeriggio, buon anno a tutti. Storia meravigliosa questa qui di Podolski. Poi giustamente i tifosi dell'Inter sui social hanno messo l'intervista di Bonucci, che prima aveva detto che era interista, poi aveva detto che non era vero, sempre è stato juventino. Però sono quelle cose lì che ti tengono vivi in questi giorni, dove gli altri giocano, l'abbiamo detto, e noi siamo seduti a guardare. Sì, romanziamo un po', ci illudiamo su qualche acquisto che magari potrà essere la panacea, come dicevano, chi lo sa, vediamo. Questo divertimento del 2006 del post Calciopoli è sempre vivo, basta toccare quell'argomento lì e scateni almeno metà dell'Italia pro e metà dell'Italia contro, quindi questa cosa di Podolski è veramente divertente. Ma quanti nel passato hanno detto di tifare per una squadra poi sa giocare nell'altra, o qualcuno che ricordo sempre Capello che avrebbe detto io mai alla Juventus storicamente e poi ci è andato. Insomma, queste cose poi alla fine, quando fischia l'arbitro e comincia la partita, lascio il tempo che trovo. Giustamente, come dicevi tu, è un divertimento post fine anno che ci consola di alcune amarezze che ci regala il nostro calcio, perché anche questi acquisti che entusiasmano tanto, io sentivo questi tifosi veramente sono encomiabili. Arriva Cerci, che non ha mai giocato all'Atletico Madrid, sembra che sia Pelé. Arriva Podolski, che faticava a giocare all'Arsenal, sembra che sia Maradona. E invece sono, ti accorgi che poi sono prestiti, dire scarti perché è una parolaccia, ma insomma non è che siano dei campionissimi come arrivavano una volta in Italia. Sì, meglio Cerci o Podolski? Perché poi si fanno anche questa domanda, soprattutto i tifosi dell'Inter, che hanno perso Cerci, che era il primo della lista, anche se poi Mancini ha raccontato che non era vero, non c'era mai stata trattativa. Si consolano con Podolski, magari gli è anche andata bene, vedremo a maggio. Ma secondo me sì, gli è andata bene anche per la mentalità che ha Mancini, molto tedesco. Mancini è un allenatore che lavora, fa lavorare, pretende molto dai giocatori, giustamente, e non so se avrebbe legato con Cerci. Questo è un grande interrogativo che non risolveremo mai, ma Podolski è andata sicuramente meglio a Mancini, anche perché all'Inter poi i tedeschi hanno una grandissima tradizione, come sappiamo in Italia hanno sempre fatto bene. È un giocatore che può giocare sull'esterno, può giocare al centro, sicuramente farà fare un salto in avanti all'Inter. Su Cerci io mi tengo piccoli dubbi, avendolo visto in diverse situazioni, da grande fenomeno che era da ragazzo, doveva essere l'erede di Totti in tutti i sensi, poi in diverse situazioni si è perso. C'è un paradosso assurdo, bellissimo se vuoi, questo ragazzo ha giocato bene soltanto quando è stato diretto da Ventura, poi con altri allenatori, io lo ricordo ora anche con Simeone, è finito in panchina, quando era a Firenze con Mihajlovic giocava e non giocava. Sì, ha sempre fatto fatica. Ventura, che oggi sulla Gazzetta dello Sport ritira fuori quel paragone che fece molto discutere, fatto da un collega: Cerci meglio di Robben, per cui se Cerci è meglio di Robben è andata sicuramente benissimo al Milan, se non è come Robben forse è andata meglio all'Inter. Io lo chiedo anche agli amici a casa: 800 24 00 24, meglio Cerci o meglio Podolski? Poi in attesa domani di verificare se questi botti di mercato hanno spostato qualche rapporto di forza, metto dentro anche il Napoli, con Gabbiadini che è in aereo e intorno alle 18 atterrerà a Capodichino, poi arriverà Strinic, si sono mosse soprattutto quelle dietro alle prime due. Sì, guarda, il Napoli, Gabbiadini è un ottimo giocatore, ha fatto Strinic, un ottimo terzino, quindi ha fatto due buoni colpi, manca sempre un grande centrocampista al Napoli per fare quello che si chiama salto di qualità e avvicinare la Juve e la Roma, ma questo è un altro discorso. Io ho sempre un pallino che si chiama Mario Suarez, che l'Atletico Madrid venderebbe volentieri, lì ci vuole il cash, farebbe comodo sia al Napoli che al Milan un centrocampista così, non ce l'hanno. Comunque, come dicevi tu, il Napoli si è rafforzato, l'Inter si è rafforzato, il Milan sulla carta si è rafforzato, la Juventus che invece e anche la Roma, forse in virtù della loro forza, supremazia, non stanno facendo nulla. La Juventus qualcosa dovrà fare se vuole competere anche in Champions. Sì, ti piace l'idea Snyder o ha ragione chi dice è un mezzo bollito? C'è una via di mezzo da trovare. Allegri l'ha definito un lusso che ci possiamo permettere, altri dicono andato via dall'Inter o comunque dopo la stagione del triplete non è stato più quello Snyder lì, quello arrivato a un passo dal pallone d'oro. Ma guarda, è andato via dall'Inter perché aveva un ingaggio stratosferico, ricorderete, più di 6 milioni, e l'Inter a quel punto lì aveva cominciato a tagliare perché i bilanci erano rossissimi, non rossi, rossissimi, hanno tagliato tutti gli stipendi alti e tutti i giocatori con quegli stipendi lì sono stati ceduti a uno gli ultimi l'estate scorsa, quindi non è stato per quello. Secondo me se arriverà la Juventus sarà un ottimo acquisto, un giocatore che può fare molti ruoli, persino può sostituire Pirlo, io l'ho visto nel Galatasaray ultimamente giocare anche davanti alla difesa, può fare il trequartista, può fare l'esterno, un giocatore che è un vincente, che porta carisma. Io credo che per l'Europa possa essere veramente un colpo in coppia con Tevez, io lo vedo ancora molto bene nonostante l'età e nonostante il passato, il logorio, diciamo così, atletico che ha avuto. E quindi se magari arrivasse, anche lì siamo di fronte a scarti purtroppo, perché le nostre squadre non possono permettersi di andare a prendere campionissimi, e qui potrebbe esserci un affare. Metti insieme i soldi, metti insieme un giocatore di ottima qualità, se la Juventus se lo porta a casa farà un grande colpo, secondo me. Sì, noi non ci possiamo permettere Cristiano Ronaldo, che 10 secondi fa ha messo dentro il calcio di rigore del vantaggio del Real Madrid a Valencia, dunque Real Madrid 1 Valencia 0, 13 minuti, gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Spagna che vivrà anche questa stagione con la lunga volata tra Barcellona e Real Madrid, c'è anche l'Atletico Madrid. A proposito, non so Enzo che effetto ti hanno fatto oggi le immagini del Calderon pieno, 45.000 persone per salutare il ritorno del Niño. Non c'era partita, c'era solo Fernando Torres che ha fatto una passeggiata in mezzo al campo e poi è andato a fare conferenza stampa. No, ho visto e mi sono, non dico emozionato perché ormai le emozioni magari sono un pochino più lontane, però ho pensato, guarda, che nel calcio a volte parliamo sempre di giocatori riconoscenti o di tifosi che poi fischiano gli ex. Qui è una bella storia di calcio, una bella storia di sport, 40.000 persone per un grande ex. Evidentemente Torres... Sì, qualcuno dice malizioso un grande ex in tutti i sensi, cioè nel senso un grande ex giocatore che è tornato a chiudere. Sì, però questo comunque sarà, questo lo vedremo sul campo, magari lì invece si libera la testa ai pesi di quei 50 milioni di euro che è stato pagato e che probabilmente hanno lasciato un segno nella sua psiche, diciamo così, o forse anche nei piedi, in tutte e due, però magari lì si libera, torna all'origine, qualcosa potrà ancora fare Torres, però è una bella storia umana, perché io non ricordo un ritorno di un giocatore, almeno nel nostro campionato ci siamo abituati a trattare diversamente gli ex, a fischiarli, a malerirli secondo le situazioni, qui veramente... se vogliamo scrivere una pagina non da libro cuore, però quasi, scriviamola pure. Evidentemente Torres in tutti questi anni è sempre stato rispettato e ha rispettato la sua ex squadra, la sua ex maglia, il cuore non si dimentica. Sì, per vedere quelle immagini lì bisogna tornare anni 80, il San Paolo di Maradona, lacrima sulla guancia di Giorgio De Luca, autore di questa puntata. Dopodiché noi, scene così, io almeno a memoria non ne ricordo. 800 24 00 24, grazie Enzo Bucchioni. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto. Ciao Enzo, buon anno, a presto, traffico. Ciao, sono Paolo Nellet e anch'io tifo Inter. Porca miseria, se lo dice Podolski posso dirlo anche io, che sono una persona molto intelligente. Oh. Tutti convocati. Ogni partita conta per se stesso e la Juve è sicuramente la squadra, secondo me, con la Roma più forte in campionato e si aspetta una bella partita perché è un buon avversario, bel campo, bel stadio e si può fare solo bene. Penso che noi ci stiamo preparando bene e vogliamo fare i 3 punti. Speriamo di vincere un altro scudetto e... di andare ancora più lontano che abbiamo fatto 2 anni fa in Champions. Per vincere un scudetto è sempre difficile, quindi vuol dire che dobbiamo dare tutto e anche sacrifici. Questi Kovacic e Pogba di oggi, 800 24 00 24, la domanda è sempre lì, eh? È andata meglio all'Inter o al Milan? Cioè meglio Cerci o meglio Podolski? E poi cominceremo da domani a vederlo. Cerci, che quasi certamente sarà disponibile per la gara col Sassuolo, su Podolski non si sa. 800 24 00 24, c'è chi scrive: credo sia andata meglio all'Inter, Inzaghi è un buon allenatore, però onda a parte ha dimostrato di non essere in grado di rigenerare le punte, oppure Luca da Como: in questa campagna acquisti mi sembra che sia ritornato il Milan di Blissett. Mi sembra, Luca da Como, un giudizio un pelino ingeneroso. Saluto Guido Vacciago, collega di Tutto Sport, e Marco Barzaghe di Sport Mediaset. Ciao Guido, ciao Marco. Buongiorno, buon pomeriggio, buon anno, si può dire buon anno ancora? Si può dire ancora buon anno, siamo al 4, almeno fino a martedì sera credo si possano fare gli auguri. Oh, tra una voce di mercato e l'altra ci sarebbe anche da preparare Juventus-Inter, martedì sera ore 20:45, 18 punti di distacco tra Juventus e Inter, credo zero tensione di classifica. Mi sembra, Guido, che resti giusto l'etichetta Derby d'Italia, almeno per se restiamo alla stretta attualità. Vabbè, resta però una partita sentitissima, la rivalità tra le tifoserie che è nata, che esisteva già ma che si è acuita dopo i fatti di Calciopoli, credo che rimanga una delle rivalità più sentite in assoluto da parte del tifo juventino e per diciamo in qualche modo riflesso anche da parte del tifo interista. Quindi... Sì, basta vedere la reazione di quella grande arena che sono i social network ieri alla notizia di Podolski juventino. Esatto. Come metro di misura. Quindi io credo che la partita sia una partita, sia, anzi forse mai come adesso l'etichetta di derby ha un senso, cioè in fondo il derby è quella partita che a prescindere dalla classifica ha un valore, no? Come sfida in sé, penso a Juve-Torino ormai sono 30 anni che non vale nulla per la classifica, ma continua a essere una partita che in città ha un suo significato. Juve-Inter ha un suo significato in tutta Italia, insomma. insomma, Juve e Inter sono due squadre che tutto sommato non portano il nome della loro città, no? E quindi hanno tifosi che sono poi sparpagliati per tutto il territorio italiano e che insomma, non voglio usare la parola odio, mi disturba, però insomma non si stanno simpatici. Sì, un sano odio sportivo c'è. Esatto. Mi piace capire da Marco Barzagli se anche in queste ore ad Appiano si vive così, oppure se davvero c'è distrazione per le voci di mercato, per la necessità di Mancini di costruire qualcosa da zero e anche in fretta. No, sicuramente c'è grande attesa, sentitissima più che mai, anche perché come sottolineavi tu la classifica dice un'enormità, un mare tra le due squadre, e l'Inter vorrebbe veramente, desidera a tutti i costi cercare di cominciare il nuovo anno nel modo migliore, di dare una svolta, di cancellare tutte le difficoltà come se con una bacchetta magica, e proprio questa partita potrebbe, dico potrebbe perché il valore delle due squadre è molto differente, dare una mano a Mancini per veramente iniziare da adesso col piede giusto la sua avventura all'Inter. Sì, perché il primo bilancio, 5 punti nelle prime 5 partite, non è un bilancio numericamente all'altezza delle attese, qui ne abbiamo parlato tante volte, è vero c'era di mezzo la trasferta a Roma, c'era un derby affrontato praticamente in emergenza, però i numeri spesso dicono qualcosa e dicono che Mancini è caduto come aveva fatto prima Mazzarri, i numeri sono lì, 5 punti nelle prime 5 partite. Sì, 5 punti, e poi se analizziamo anche quei 5 punti, se El Shaarawy non avesse graziato l'Inter sarebbero 4, come se non fosse riuscita la rimonta sulla Lazio sarebbero ancora meno, sarebbero addirittura 3, quindi è veramente una situazione difficile. Adesso si aspettano i rinforzi del mercato per dare una fisionomia più manciniana alla squadra, e vedremo se Toir, con la scure del fair play finanziario, con qualche magheggio di mercato, con qualche prestito, con obbligo di riscatto, riuscirà a dare quei rinforzi che Mancini ha chiesto, almeno uno per reparto. Il fatto che l'ultima della Juve prima di questa sfida con l'Inter sia la Supercoppa, e quindi una partita persa, che la Juve in realtà, se si riannoda il filo dell'ultima parte della stagione del 2014, Guido, non vinca in casa da novembre, e l'abbia fatto con un tiro di Pirlo al 93esimo in un derby che non meritava di vincere, cioè tutto questo ha un peso nel modo in cui a Vinovo stanno preparando la partita? Secondo me sì, per quanto lo spirito con cui la Juventus ha incassato la sconfitta della Supercoppa è stato uno spirito molto costruttivo, non mi sembra che all'interno della società si siano fatti dei drammi, e non mi sembra che Allegri si sia dimostrato particolarmente preoccupato, anche il fatto stesso di averla persa in maniera un po' rocambolesca con i rigori ha ridimensionato l'impatto di quello che è il primo trofeo mancato della stagione. Però è vero che la Juventus non sta convincendo da un po' di tempo. C'è stato un momento nella stagione, proprio quando Allegri era passato al sistema 4-3-1-2, che aveva inanellato una serie di partite particolarmente brillanti, forse la più bella era stata quella con la Lazio all'Olimpico. Da lì in poi c'è stato un po' un calo, non so se di concentrazione, non so se un calo fisico, certamente qualcosa non funzionava. Tevez a Doha ha parlato di stanchezza fisica e mentale, e Tevez è sempre sincero. Sì, c'era un po' di fiato corto, di discorso che si può allargare anche alla Roma, se poi restiamo alla volata scudetto. Tutte e due erano arrivate a metà dicembre un po' con il fiato corto. Sì, ecco, se in queste vacanze i giocatori hanno riposato, se in qualche modo è stato fatto un lavoro per restituire quella brillantezza che la Juventus aveva trovato in autunno, io direi che la Juve può ricominciare alla grande, però pesa, insomma, fino a che non saranno in campo e fino a che non ci renderemo conto dell'effettivo stato di forma della Juve, pesa quell'ultimo, diciamo, mese e mezzo giocato così dalla Juve, perché poi appunto tu hai ricordato l'ultima vittoria con il Torino nel derby, una vittoria che è stata accolta con un tiro di Pirlo al 93esimo che ha reso il derby spettacolare, ma che tutto sommato era un derby che poteva tranquillamente, sì, derby che meritava ampiamente il Toro, meritava ampiamente di pareggiare. Vi chiedo due informazioni di servizio, partendo dalla Juventus, cioè chi gioca martedì, se ci sono idee chiare o dubbi, Guido. Io credo che titolarissimi, quindi se puoi, se posso ti snocciolo la formazione. Andiamo. Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Vrà, un centrocampo a tre formato molto probabilmente da Pogba, Pirlo e Marchisio, Vidal in posizione di trequartista e Llorente e Tevez in attacco. E invece gioca o no Podolski, Marco? Podolski sicuramente non giocherà dal primo minuto, quindi andrà in panchina. Se domani l'Inter riuscirà nella sua lotta contro il tempo e riuscirà ad avere tutta la documentazione necessaria depositando in Lega il contratto, sicuramente si allenerà domani per la prima volta con i nuovi compagni, perché oggi non l'ha fatta, una questione soprattutto assicurativa in caso di un possibile infortunio. E probabile formazione 4-2-3-1, quello che sta provando ripetutamente Mancini, con Handanovic in porta, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio spostato a sinistra, con Medel e Kuzmanovic a protezione di tre diciamo trequartisti offensivi come Kovacic, Cernanes e Palacio, poi Icardi unica punta. Sì, si lavora soprattutto sulla testa. Marco, sulla testa e sull'entusiasmo, entusiasmo che abbiamo visto all'arrivo di Podolski all'aeroporto, vicenda tra l'altro gestita molto bene a livello comunicativo dall'Inter dopo lo smacco dello scippo di Cerci da parte del Milan. Vi faccio sentire Kovacic oggi sull'ipotesi di rinnovo, perché all'Inter i rinnovi vanno molto per le lunghe, poi magari un giorno capiremo anche perché Ranocchia non firma il rinnovo, ad esempio, da capitano, ed è ufficialmente un giocatore con il contratto scaduto che da oggi potrebbe prendere accordi con chiunque, anche se tutti dicono che non ci sono problemi. Kovacic oggi sul rinnovo. Sì, come già detto tante volte, qua sto veramente bene. Stiamo parlando sì del rinnovo, stiamo penso anche vicini, e sicuramente sono contento per questo, perché l'Inter è un grande club che deve tornare ancora grande, perché non stiamo in questo momento facendo bene. Gli ultimi 2-3 anni sono difficili, ma penso che con il nuovo allenatore che abbiamo preso e con tanti nuovi giocatori si può fare una grande squadra. Quindi se diciamo, Marco, che Kovacic è la pedina che non si può spostare né adesso né a giugno, magari altri invece sì, penso ai Cardi, diciamo il giusto. Sì, giustissimo. E una voce che è stata poco alla fine sottolineata, che c'è stato un contatto tra Icardi, il suo procuratore, e Paratici, quindi la Juve pensa anche a questo scippo per un po' anche infiammare il derby d'Italia in un post Tevez. Icardi sicuramente, viste le problematiche per il suo rinnovo che mi dicono molto molto difficile, potrebbe essere sacrificato, non credo a gennaio, però sicuramente a giugno molto probabile. Sì, dopo aver infiltrato Guido Podolski tra le linee del nemico, la Juventus farebbe anche questo colpo, ma ne parliamo, a ragione Marco, eventualmente se ne parliamo, ne parliamo a giugno. L'ultima curiosità che mi resta invece è se arriva Sneijder, chi sta fuori del quartetto di centrocampo: Vidal, Pogba, Pirlo, Marchisio. Guido, bella domanda. Io credo che domani giocatore ingombrante Sneijder, se arriva, cioè non uno che viene per fare il comprimario. No, non è esattamente, è un pezzo importante, come si dice quando si parla di arredamento. E direi che domani sarà la prima domanda o la seconda domanda che verrà posta ad Allegri, ammesso che Allegri non se ne esca con il solito "non parlo di giocatori che non sono qui, qua parla eccetera eccetera", quindi è quella, gli suggeriamo già la scappatoia purtroppo. Ma io credo che i due che rischino siano Pirlo e Vidal, perché in questo momento sta occupando la posizione che dovrebbe occupare Sneijder, cioè sulla tre quarti, e non la sta occupando bene. Parliamoci chiaro, Vidal sta giocando la sua peggiore stagione da quando è alla Juve e sta giocando davvero una pessima stagione. Speriamo per la Juve che, e anche per tutto sommato il nostro campionato, che il giocatore torni a essere quello di un tempo. D'altra parte però, giocare con Pirlo davanti alla difesa e Sneijder sulla tre quarti rischia di esporre un pochino il centrocampo, soprattutto con una difesa 4, e quindi potrebbe anche verificarsi una situazione che in qualche modo Allegri ha già vissuto in passato. Quindi gettonatissima la ricerca d'archivio su rapporti Allegri-Pirlo, Milan, Van Bommel, chi ha mandato via chi e tutto il resto, che ci terrà vivo se dovesse arrivare Sneijder. Ho l'impressione, Guido, fino a giugno. Sì, sì, ma è tutto memoria, in fondo è roba, è storia recente, non c'è bisogno dell'archivio, possiamo fidarci dei nostri ricordi personali. No, direi di sì, che la situazione è quella, perché tutto sommato Marchisio davanti alla difesa, che è una, come dire, una soluzione che quest'anno, per questioni di infortunio di Pirlo, Allegri ha sperimentato più volte e di solito è sempre andata bene, perché Marchisio davanti alla difesa si è disimpegnato in maniera brillante e offre certamente più copertura rispetto a Pirlo. Quindi io penso che con Snyder davanti, diciamo dietro le punte, alla fine Allegri spesso e volentieri potrebbe mettere Marchisio al posto di Pirlo. A meno che ad Allegri non venga in mente di proporre a Pirlo di spostarsi sull'interno, come ha fatto avendo trovato Van Bommel diga davanti alla difesa al Milan, con tutto quello che è successo. Ma abbiamo dei mesi per parlarne. Grazie Guido. Direi di sì. Buonasera a tutti. Grazie Guido Vaciago, grazie anche a te Marco. Grazie, buona serata. Ciao Marco, buon anno anche a te. Ci fermiamo? Poi c'è il mercato. Amici di Radio 24 e di tutti i convocati weekend, sono Super Mario Balotelli. Anch'io dalla nascita tifo Inter. A Mario, buona la prima! Ok! Va bene così, se hanno preso Podolski, magari riprendono anche me. Tutti convocati. Ancora Robben. Scavalca anche Ochoa, Untelar fa la torre. Arriva Snyder! Snyder! 1-1! Il pareggio dell'Olanda. I'm gonna give you my heart. Gerard per Coutinho, vicino all'area di rigore con l'esterno per Balotelli. Viene anticipato sul tocco di Coutinho. C'è destro, Florenzi lo cerca, pallone per destro, azione spettacolare della Roma, Matti a destro, buca il Cagliari, come l'anno scorso, 1-0 per la Roma. Le firmaron la extensión porque no es lo que siento en este momento, pero sí cumplir el contrato como lo dije y como todos saben lo he dicho desde el primer momento en que llegué a la Juve, lo he dicho, ¿no? 800-24-0024, sta succedendo di tutto a Valencia, capannello di proteste intorno all'arbitro che ha già dato un calcio di rigore al Real Madrid, rigore poi realizzato da Cristiano Ronaldo dopo 13 minuti, adesso si sta discutendo ancora, poi vi diciamo anche che ha pareggiato il Manchester City 1-1, manca un quarto d'ora alla fine con il Sheffield Wednesday, sta pareggiando il Chelsea, sta pareggiando ed è appena iniziato il secondo tempo il Manchester United in trasferta sul campo dello Yeovil, quelle sfide meravigliose di FA Cup dove si va a giocare in casa di una squadra di terza divisione. Saluto Carlo Laudisa, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao a tutti, buonasera. Si parla di mercato molto, scrive un amico, da come parlate sembra che la Juve possa fare quello che vuole con i giocatori dell'Inter. Cos'è? Anche Icardi finirà come Guarin. Parlavamo prima con Marco Barzaghi di questi contatti che ci sono stati comunque in questi giorni tra l'entourage di Icardi, la Juve, si parla ovviamente di giugno. Però c'è da dire che è un mercato che, pur non ancora iniziato, ha già regalato qualche botto. Lavorano soprattutto quelle alle spalle delle prime. Sì, beh, ha cominciato sicuramente il Napoli, no? Con Gabbiadini e Strinic. Gabbiadini oggi viene presentato, comunque viene fatto visita medica. E poi soprattutto sono mostro i milanesi con Cerci al Milan e Podolski all'Inter. Ora vedremo se la Juve riuscirà a portare a casa Snyder. Quindi ho anche Rolando per la difesa, questi sono gli obiettivi principali. Per quel che riguarda l'Inter ci sono altri due colpi all'orizzonte, un altro esterno alto di qualità, c'è questa trattativa avviata per Shaqiri con il Bayern Monaco, ma in alternativa non si trascuri l'opzione Lavezzi del PSG. E poi c'è un centrocampista, la Sana Diarra è in cima alla lista di Mancini, però sono anche gettonati i nomi di Lucas Leiva, del Paulinho, del Tottenham, Camacho, del Malaga, insomma tanti prima o poi si analizzerà anche qualcosa in uscita, perché poi la situazione del bilancio dell'Inter è quella che oramai descriviamo da mesi, ed evidentemente qualcuno di questi, Podolski, è arrivato a prezzo praticamente costato, limitato a nulla, sì. Qualcuno dovrà costare. Lì c'è Mancini che ha già fatto il discorso e ha detto: se dovesse essere necessario sacrificare qualcuno, si può fare. A proposito di Lavezzi e Cavani, messi oggi fuori rosa dal Paris Saint-Germain, ha detto Blanc: il loro comportamento è stato inaccettabile, saranno fuori nelle prossime due partite ed esclusi fino a sabato dagli allenamenti con la prima squadra. Io non so, Carlo, come vadano lette queste parole, più relativa multa, ma quello è l'aspetto minore, diciamo, di tutto. Non so come vadano lette queste parole. C'è chi giustamente ha fatto notare che lo sceicco Altani può anche permettersi di farli giocare nel giardino di casa sua per 6 mesi, però è vero che anche al Paris Saint Germain i tempi cambiano, c'è il fair play, ci sono le sanzioni, c'è la trattativa con l'UEFA. Come le leggiamo queste parole? Un po' l'hai accennato tu, l'avevo detto anch'io poco fa a proposito del bivio interista fra Shaqiri e lo stesso Lavezzi, perché da quello che si può capire, se per Cavani c'è una crisi che è nata già in estate e che comunque non potrà risolversi prima dell'estate prossima, per Lavezzi potrebbe esserci un cambio di maglia immediato, e quindi sono evoluzioni che potranno essere meglio testate nei prossimi giorni, quando rientrerà nella capitale francese il presidente Nasser Al-Khelaifi, che in questi giorni è impegnato a Doha per il torneo internazionale di tennis, di cui evidentemente l'emiro Altani è il finanziatore, l'organizzatore, quindi sono tutte congiunture che in questo momento non ci danno certezze, ma ci permettono di capire che sta nascendo un gennaio sul mercato bollente. Ma c'è anche la Juve per Lavezzi o no? No, ma sulla Juve va fatta chiarezza, nel senso che ormai Allegri ha sposato il modulo col trequartista, quindi Lavezzi, per quanto sia un giocatore che certamente piace, non è centrale nelle strategie della Juventus, che, come accennavi tu prima, in estate dovrà cominciare forse anche il problema della sostituzione di Tevez, quindi lì per l'attacco c'è una strategia da elaborare e che chiaramente dovrà portare a grandi nomi, no? Per cui la scorsa estate la Juve ha accarezzato il sogno di Falcao, non è detto che torni, che non ci riprovi in estate prossima, però per gennaio limitiamoci a quegli obiettivi concreti che sono appunto Sneijder e Rolando che sono obiettivi che portano a un rafforzamento in vista della volata scudetto con la Roma, meno su un discorso di prospettiva sulla Champions, che evidentemente a Torino in questo momento ritengono davvero qualcosa di irraggiungibile. Ti chiedo se il finale tra Neto e la Juve, cioè Neto che a luglio si trasferisce alla Juventus, è un finale scritto? Ancora non è scritto, perché oggi qualcuno parla anche di un interessamento dell'Inter che porterebbe poi a giugno Handanovic, che ricordiamo scade nel 2016, a trasferirsi a Roma. Allora, le società che sono fatte avanti per Neto sono il Liverpool, la Roma e la Juve. Gli exit poll dicono che la Juve sia la grande favorita per averlo a luglio. Ti faccio sentire Berlusconi sul mercato del Milan ieri, tra un IP Purrà e il taglio della barba di Cerci. Ci ha dato anche una notizia, eccola. Io penso che non abbiamo bisogno di aspettarci rinforzi sulla rosa che adesso abbiamo qui. Penso che abbiamo una rosa che è equilibrata in tutti i settori, attacco, centrocampo, difesa, che abbiamo delle possibilità enormi di sostituzione quando uno si fa male, quando uno è stanco, quando uno è squalificato, eccetera, che le altre squadre non hanno. Lo prendiamo per vero, Carlo? In effetti è coerente, perché quello che sta dicendo da almeno un mese a questa parte, al momento bisogna prenderlo in parola, perché Gagliani in queste settimane aveva seminato un po' su varie tracce, per il centrocampo, per l'esterno di difesa, e si è fermato anche perché l'input al momento del proprietario è questo. Però dal Milan, da Silvio Berlusconi e dallo stesso Gagliani ci si deve sempre aspettare qualche colpo a sorpresa. Sì, vorrebbe dire rassegnarsi a Galliani un mese fermo con il mercato aperto, no, senza giorni del Condor. Io non ce lo vedo fermo. E tutto quello che da metà dal 30 gennaio in poi fino al 2 febbraio potrà accadere. Difficile da credere, però questo, no, è anche vero, questo ha detto Berlusconi oggi. Allargando un po' il tema, ricordiamo sempre che l'anno Venturo entrerà in enorme vigore sulle rose a 25, e Milan come altri grandi club ha tanti giocatori tesserati, e ovviamente in questa fase, se non esce qualcuno, è difficile pensare degli ingressi, quindi è questo il problema che sta paralizzando al momento il mercato di entrata del Milan. Però se qualcuno dovesse uscire, strada facendo, io credo che i rossoneri hanno l'acquolina alla bocca, perché comunque la situazione di classifica è soddisfacente, e se l'Inter crede ancora nel terzo posto, a maggior ragione ci crede il Milan. Sì, torniamo sempre lì al discorso iniziale, si sono mosse quelle dietro Juventus e Roma, credo perché i 27 punti in 16 partite del Napoli autorizzano qualche speranza su una rincorsa al terzo posto che a inizio stagione vedeva il Napoli assoluta favorita. 27 punti, 16 partite, fatto due conti, significa una proiezione a 64, cioè siamo 6-7 punti al di sotto della media degli ultimi 10 anni per il terzo posto. A quei punti lì ci possono credere anche gli altri, ci può credere il Milan, l'Inter, la Lazio e tutti gli altri. Ultima battuta invece sulla Roma, che mi pare si possa iscrivere all'elenco delle squadre che ufficialmente a gennaio staranno ferme o quasi. A meno che non accada qualcosa per il ruolo di terzino sinistro, perché a meno che non esca destro, che allora darebbe a Sabatini un budget. Sì, però non vedo offerte in Italia di società pronte a pagare quei 15-16 milioni che la Roma chiede per filarsi il suo attaccante, quindi è un'eventualità che al momento sembra poco probabile. Grazie Carlo. Grazie a voi, un saluto. Grazie a Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport. 800 24 00 24, traffico. Amici di Radio 24 e di tutti i convocati weekend, sono Luciano Moggi e voglio urlare al mondo intero la mia fede nerazzurra. Forza Inter! E certo, se lo dice Podolski, e lo dico pure io. Tutti convocati. E i ragazzi fanno la stessa cosa. Vengono 7, 8 giorni, 9 giorni, cerchiamo di dare un'impronta alla squadra, cerchiamo di dare una mentalità, cerchiamo di dare dell'intensità. In 7, 8, 9 giorni. Magari qualcuno storce pure il naso in quei 7, 8, 9 giorni. Io quello che sto lamentando è mancanza di considerazione nei confronti della nazionale. È chiaro, la nazionale viene vista come comunque un fastidio, come un fastidio. Bisogna veramente pensare al bene dell'Italia, un momento veramente molto molto critico. C'è chi dice abbiamo toccato il fondo, io dico che possiamo ancora scavare, ecco. Sì, però se poi i buoni propositi rimangono solo a parole, servono a poco. Io sono uno a cui piacciono i fatti, che sia Natale, che sia Capodanno, sia Pasqua o sia un'altra festività. Meglio agire piuttosto che parlare, ecco. Spesso si parla tanto a vanvera, si promette, ma alla fine chi fa i fatti sono veramente in pochi. Mentre gli altri giocano, paro del Valencia pochi istanti fa ed è appena finito il primo tempo, Valencia 0 Real Madrid 1, gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Mentre gli altri giocano noi parliamo, e parliamo anche della nazionale. Oggi sulla Gazzetta dello Sport l'indiscrezione, la voce che Conte avrà quella settimana in più per preparare l'Europeo del 2016, quella che chiedeva facendo finire la stagione il 15 maggio e non il 22 come da programmi. Poi sugli stage che si accontenti. Saluto Fabio Guadagnini, direttore di Fox Sport Italia. Ciao Fabio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Soluzione di assoluto buonsenso, e poi allargheremo il discorso alla questione dei calendari. Sì, buon senso che prevale, perché naturalmente l'Europeo è importante, noi stiamo vivendo, devo dire che questa sintesi di dichiarazioni importanti del 2014 rendono l'idea di quale sia il momento del nostro calcio, un calcio in cui ottimisticamente parlando bisogna comunque trovare una via per uscirne con stile, con qualità e con un piano di ricostruzione. Quindi dare un po' più di spazio alla nazionale, dare importanza al progetto della nazionale è sicuramente un buon punto di partenza. Naturalmente poi ci sono le esigenze della società e questo mi è sembrato un buon punto di caduta, insomma un compromesso ottimale per dare quei 7 giorni che servono anche un po' a decongestionare alcuni giocatori in vista dell'europeo. Sì, diverso il discorso degli stage, nessuno in Europa li ha a livello di nazionale maggiore, difficile pensare che possa averli Conte con tutti i giocatori nel mese di febbraio che segna il ritorno delle coppe europee, ma credo lì tutto vada derubricato anche a una sorta di lotta di potere tra Conte e il resto del mondo, la federazione, la Lega, cioè non è solo una questione tecnica. Ma io credo che Conte, Antonio Conte, si è reso conto che con un campionato come il nostro, sempre più orientato verso una esterofilia di secondo o terzo livello, quindi non con tanti giocatori stranieri, ma non di qualità eccessa, e quando non abbiamo top player nel nostro campionato è difficile che durante gli allenamenti anche i giovani riescano a alzare il loro livello di qualità, perché non hanno davanti a sé tutti i giorni in fase di allenamento degli esempi a cui mirare, dei punti di arrivo su cui potersi concentrare. Detto questo, lui ha cercato di proporre un cambiamento molto forte, ma giustamente, come sottolineavi tu, è un cambiamento unico nel contesto europeo e mondiale, e proprio per questo sono dinamiche che difficilmente si possono realizzare in tempi brevi o medio brevi, proprio perché quando si vuole inserire un nuovo tipo di programmazione per la preparazione delle nazionali va fatto ormai in un contesto quantomeno europeo. Sì, anche perché poi bisognerebbe capire perché Allegri deve dare i giocatori e ad esempio Klopp non mandare allo stage della nazionale Immobile, perché non si è parlato ad esempio del coinvolgimento degli italiani che giocano all'estero, vale per Immobile, vale per Balotelli, vale per quelli che giocano il Paris Saint Germain. La notizia è che per dare a Conte quella settimana in più alla fine della stagione 2015-2016, l'anno prossimo o si giocherà il 23 dicembre o si ricomincerà il 3 gennaio, cioè accorciando un po' quelle vacanze di Natale che abbiamo scoperto anche quest'anno sarebbero state forse il momento buono per riportare le famiglie negli stadi, guardando quelli che sono stati i dati d'ascolto televisivi di Fox per le partite inglesi, guardando anche i dati delle presenze negli stadi della Serie B che gioca, lo ricordiamo, ha giocato il 24 e il 28 dicembre, tema che in Italia sembra tabù. Sì, è tabù per una serie di motivi. Il primo, comunque, secondo me non è tanto un elemento, come dire, televisivo di pianificazione e di comunicazione, è proprio il fatto che avendo degli stadi così vecchi e obsoleti sono abbastanza respingenti per quelle che sono anche le esigenze delle famiglie e dei giovani. In questo momento andare in uno stadio freddo, poco ospitale, con parcheggi molto distanti e spesso purtroppo qualche volta anche abbastanza pericoloso o quantomeno incerto dal punto di vista della sicurezza, non diventa un buon elemento per passare una giornata di vacanza tra Natale e Capodanno. Questo non avviene in Inghilterra, dove gli stadi sono molto ospitali, sono ormai centri di aggregazione, ci vanno tranquillamente le famiglie, e andare a vedere una partita, come dire, è certamente l'elemento culminante, ma è uno degli elementi dell'intrattenimento di una giornata a spendere insieme. Questa sembra retorica, ma di fatto è così, e pertanto quindi dobbiamo aspettare fra 10-20 anni, quando avremo, forse se avremo, gli stadi nuovi di proprietà per poter giocare nella pausa di Natale, o è una questione sindacale, puramente sindacale, cioè i calciatori non vogliono, hanno ottenuto questa conquista e adesso ricontrattarla, perché qualche anno fa si giocava, qualche anno fa la partita sotto Capodanno era la regola. Certamente c'è anche questo elemento, cioè il fatto che comunque c'è una rivendicazione, come dici tu, diciamo, di cartello, di categoria, per potersi prendere quelle 2 settimane di pausa, che peraltro sono anche sostenute dagli allenatori, nel senso che il logorio della prima parte del campionato è così alto, con almeno 3 turni infrasettimanali, con la Coppa Italia che inizia, con la prima fase delle Coppe Europee, insomma ci sono veramente tanti impegni, tali per cui insomma 15 giorni di decongestione, di decompressione sicuramente possono servire a essere utili. E è altrettanto vero che le rose sono di 25 elementi, pertanto in termini di pianificazione e di strategia una squadra, una società che è anche una piccola azienda dovrebbe formare le sue rose di giocatori pensando a un campionato in cui poter massimizzare gli incassi, l'appeal, la comunicazione anche nei periodi in cui le famiglie sono a casa e realmente hanno la possibilità in modo concreto di poter vedere le partite allo stadio in primis e magari anche in televisione. Sì, perché se no c'è l'effetto un po' paradossale che è un po' come se chiudessero i cinema nel periodo sotto Natale, momento in cui le famiglie stanno insieme, hanno tempo, hanno forse anche voglia, qualche soldo da spendere per dedicarsi a un'attività che appassiona, interessa, diverte, che potrebbe anche essere lo stadio. Quanto varrebbe un Juventus-Inter giocato il 26 dicembre? A livello televisivo, A livello televisivo io credo che unendo le due piattaforme almeno tra i 4 milioni e mezzo e 5 milioni. Quindi stiamo parlando molto più di un Juventus-Inter giocato in un altro momento della stagione. Sì, su questo non ho dubbi. Quindi potrebbe essere un affare per tutti, ammesso che prima o poi davvero si ragioni. Ho letto un'intervista del presidente della Lega Beretta nei giorni scorsi, vedremo, parleremo, capiremo. Credo che ci sia scarsa volontà da questo punto di vista di aprire. Intanto ha vinto il Manchester City proprio all'ultimo secondo di rimonta sullo Sheffield 2-1 con doppietta di Milner. Ha segnato anche il Manchester United, che stava facendo fatica e non riusciva a sbroccare la partita dopo un'ora contro lo Yeovil, 1-0 Manchester United. Lo abbiamo detto all'intervallo, 1-0 del Real Madrid sul Valencia, perché loro giocano, noi siamo qui ad aspettare da domani sera Lazio-Samp e poi tutte le partite della 17esima. A proposito dell'Inghilterra, approfitto della tua presenza, Fabio, per chiederti cosa pensi della mini crisi del Chelsea, che abbiamo visto tra Boxing Day e Capodanno lasciare sul campo parecchi punti. Sì, ma credo che questo faccia un po' parte del programma di una squadra che comunque ha dato molto nella prima parte della stagione. Forse un altro esempio in parallelo, ovviamente in un contesto completamente diverso, quello del Real Madrid, che dopo 22 vittorie consecutive comunque ha giocato un'amichevole, un'esibizione a ritmi abbastanza blandi nei confronti del Milan, perdendo per 4-2, per poi anche oggi, insomma, in questo primo tempo far vedere che qualche tossina è stata accumulata. Ma più che altro credo che sia un calo d'attenzione che le grandi squadre che hanno guidato i rispettivi campionati si possono concedere in questo momento. Io lo ritengo veramente una perturbazione temporanea. Il Chelsea è una squadra assolutamente attrezzata per fare almeno tentare di centrare il doppio obiettivo della Champions League del campionato, anche se in realtà il Man United comincia a diventare una formazione in grado di giocare alla pari almeno nell'arco di 90 minuti con il Chelsea. Può essere il terzo elemento che ridà un po' di interesse alla Premier League, che in questo momento vive soprattutto della rivalità tra City e Chelsea. Sì, poi se davanti rallentano, poi abbiamo visto il solito Mourinho che appena si alza il livello della difficoltà si chiude nel fortino e se la prende con gli arbitri, anche quello fa parte dello spettacolo. Intanto è arrivato per Luigi Pardo. Eccolo. Fabio Guadagnini, Luigi Pardo, vi presento. Mi stavo sentendo e adesso sono impigliato a una sedia, quindi è una scena fantoziana, peccato che non sia televisiva, però ecco, ero d'accordo sul discorso degli stadi, insomma, sono certamente, non sono quelli inglesi o quelli tedeschi, per cui una delle principali argomentazioni che insomma in qualche modo ostacolano l'idea di giocare tanto sotto Natale è proprio questa. Sì, ci ha scritto un amico in tempo reale 349-238-6666. Sì, va bene il discorso sugli stadi, però allora perché giocano domani sera, giocano infatti, che differenza c'è fra il 6 gennaio e il primo, ad esempio? Tanto per essere chiari, io sono favorevolissimo, secondo me l'eventuale pausa di gennaio oppure avere qualche turno infrasettimanale di meno e giocare di più sotto Natale e Capodanno sarebbe assolutamente positivo e aiuterebbe il movimento. E non a caso a Bodi, che insomma è un dirigente molto sveglio e molto astuto, ha capito che c'era uno spazio, c'era una bella nicchia e la Serie B insomma da qualche stagione ha portato avanti questa novità che mi pare stia funzionando tantissimo, quindi questo è giusto. Poi parallelamente, visto che vogliamo che lo stadio diventi un luogo di aggregazione sempre più bello e più positivo, insomma bisognerebbe risistemarli, perché tanto insomma se sono brutti a dicembre sono brutti anche ad agosto. È chiaro che quello diceva Fabio è giusto, è chiaro che arrivare in questo momento magari di sera allo stadio non è particolarmente piacevole. Sì, però è chiaro che non possiamo aspettare 10 anni per magari mettere quel correttivo, quello di sfruttare anche quella pausa in mezzo per fare sport. Gli stadi sono così e ce li teniamo così, Fabio, cioè almeno per qualche anno. Vabbè, sì, credo che per il momento possiamo soltanto cercare di spingere insieme a Antonio Conte verso un cambiamento, ma io credo che ci sia un po' la consapevolezza da parte di tutti che ripartire dagli stadi, ripartire dalle squadre, dai settori giovanili sia un modo magari un po' autarchico, però è l'unico modo con cui Inghilterra prima e Germania poi sono riuscite a risollevarsi da momenti di grande difficoltà e di imbarazzo sia a livello tecnico che a livello proprio di immagine, di comunicazione e di affluenza negli stadi. Quindi se noi in questo momento siamo il quarto campionato in Europa per affluenza, affluenza e viaggiamo intorno ai 21.000 spettatori medi con una percentuale di riempimento degli stadi che è vicina al 60%, insomma lì abbiamo un bel esempio davanti, che è la Premier League, che ha il 95% di capienza, e questo la dice tutta. Sì, con un pizzico di invidia abbiamo letto il vicepresidente della federazione tedesca che ha detto: stiamo lavorando sulla candidatura per il mondiale del 2030 perché dobbiamo rinnovare gli stadi della Bundesliga. Pizzico di invidia. Fammi salutare Fabio Guadagnini perché c'è il GR. Ciao Fabio, auguri. Ciao Piero, auguri ciao, a voi. Ciao, ciao. Ciao Fabio, buon anno. C'è il GR, poi torniamo, c'è Pierluigi Pardo e parliamo ancora molto di mercato. Parliamo con Paolo Condò, perché oggi abbiamo visto delle immagini stupende, Pier, da Madrid, 45.000 senza partita per il ritorno del Nino a casa. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19. Tutti convocati. Penso che noi abbiamo la possibilità di ritornare con questa rosa, di ritornare ad essere il Milan protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. La possibilità con il nuovo anno di imporci come la migliore squadra italiana. Abbiamo avuto un arrivo che a me ha fatto molto piacere, perché inseguivamo Cerci da 3 anni, finalmente è arrivato, mi ha fatto già una promessa scioccante che si taglia la barba per la prima partita. Appena arrivato il PIP, urrà! Il PIP, urrà! Il PIP, urrà! Urrà! Urrà! Per un Milan vincente nel 2015. Il PIP, urrà! Il PIP, urrà! Il PIP, urrà! Urrà! Urrà! Oh, se avete un discorso motivazionale da fare, noi siamo qui. 800 24 00 24, però fino siamo 19. Motivatissimi, tu come mai motivato? Vogliamo portare i figli di Capuano, i figli di Gente, futuri figli di Pardo, tutti allo stadio il 28 dicembre, il 28, il 20, lasciamo stare oggi, il 26 oggi, era perfetto. Oggi sarebbe stato perfetto, tra l'altro fa caldo in gran parte d'Italia, cosmica, questo non si poteva sapere prima, però insomma sì, non era male, non era male. E poi tutti alle Maldive a gennaio, via. Sì, tutti alle Maldive, chi può, chi può. Vabbè, alle Maldive gli altri vanno a scuola, però vanno a scuola, cioè, ah vero, perché i bambini non è che, scusami un attimo, però, però sai, il bambino mi volevo godere il piacere di portare il bambino allo stadio, l'eventuale bambino, ma senza poi facendogli saltare un mese di scuola, un classico da tradizione per no? andare alle Maldive, per creare l'analfabetismo. Sì, sì, poi Maurizio scrive: nazionale solo a maggio e giugno, un anno qualificazione, un anno mondiale, un anno qualificazione, un anno europei, poi ne parliamo, perché in realtà le nazionali già portano via molto più tempo i giocatori. Sì, però, guarda, parte molto più tempo. Ci sarebbe anche dal punto di vista del mercato un vantaggio, so che adesso torneremo ovviamente a parlare di mercato, perché tante volte abbiamo sentito degli allenatori lamentarsi, per esempio all'inizio della stagione, per il fatto che la prima giornata di campionato si gioca col mercato ancora aperto. È chiaro che una pausa a gennaio col sistema tedesco, com'era il sistema parlamentare con lo sbarramento alla tedesca, sì, noi facciamo lo sbarramento esatto, a gennaio, e darebbe anche questo vantaggio, che in qualche modo insomma farebbe sì che il mercato verrebbe identificato con quel periodo di stop, quindi sarebbe veramente, secondo me, solo positivo. Comunque, vabbè. Sì, scrive Mario D'Ancona: smettetela di spargere pessimismo, parlate di Juventus e Udinese che gli stadi li hanno fatti coi soldi propri senza aspettare la legge. Hai ragione Mario, il problema è Valencia. Il problema è Valencia, ecco. E Valencia è parato uno con uno, sì, il problema è che noi siamo qui a consumarci gli occhi con, no, noi, con guarda, il Valencia 1-1, Valencia Real Madrid. Io sono veramente, sono d'accordo, accolgo l'appello dell'ascoltatore, perché pessimismo non ci porta da nessuna parte, e secondo me in generale in Italia c'è troppo di pessimismo, no? C'è sempre questa, ormai questa rassegnazione, questa sfiducia, questo pensare sempre male di tutto e tutti, quindi bisogna migliorare gli stadi. L'Udinese lo sta facendo, la Juve ha fatto uno stadio bellissimo, non ci sono dubbi, e secondo me, l'ho detto tante volte, lo penso, ha tratto già un vantaggio in termini proprio di punti da quello stadio così caldo, così, no? Così coinvolgente, quindi è assolutamente una spinta anche per altre società. La Roma ci sta lavorando. ci sono tanti progetti, quindi benissimo, appunto, ma per me i due piani sono paralleli. In ogni caso portare i bambini allo stadio, insomma portare, fare il regalo del biglietto sotto l'albero, far portare i più piccoli, quindi nuovi consumatori per il futuro, sì, è un modo di garantirsi i tifosi del secondo domani, secondo me è una cosa molto sana, no. Molto sana. È chiaro che poi parallelamente gli stadi devono essere migliorati, 1-1 fra Valencia e Real, sì, una mezza autorete di Pepe, sì, diamo anche un aggiornamento sull'FA Cup, perché noi siamo qui a consumarci gli occhi col calcio degli altri. Manchester City 2-1 ha vinto, ma sì, ha vinto in rimonta e segnando al 91esimo, 8 alla fine sta vincendo il Manchester United 1-0 sul campo dello Yeovil, Sheffield Wednesday, che è la squadra di Jarvis Cocker, perché loro continuano anche questa tradizione, che giocano in casa di quella della terza divisione, non come da noi, dove non si può fare, se no capita che qualcuno perde. A proposito del dell'ottimismo, Chelsea 0-0 col Watford, sì, devo dirti che una delle cose secondo me migliorate negli ultimi anni del calcio italiano è la Coppa Italia. Cioè, onestamente, la Coppa Italia è stata, si può discutere perché nessun sistema è perfetto, certamente, però insomma, se guardiamo quello che è successo negli ultimi anni rispetto alle storie di 10-15 anni fa, dove veramente non fregava niente a nessuno, oggi la Coppa Italia propone delle, dal gennaio in poi, delle belle sfide, quasi tutte tranne la semifinale in gara secca. La finale, al di là ovviamente di ciò che di drammatico è successo lo scorso anno, è comunque un bellissimo evento, sì, è diventato un appuntamento tradizionale, fisso, insomma, con una sua storia. Dai, lì bisogna dire che secondo me sono state fatte cose razionali. Sì, è stata cucita su misura per le grandi, però dai quarti in poi ci divertiamo. 800 24 00 24, Andrea da Verona. Andrea, eccoci, buongiorno, eccoci. Anzi buon pomeriggio, sono contento ci sia anche Pierluigi. Ciao. Volevo dire esattamente quello che state dicendo voi un attimo fa. Io sono tifoso del Palermo, l'anno scorso mi sono cuccato tutta la Serie B, ma una cosa buona che hanno fatto in Serie B è lo stop a gennaio, perché effettivamente si fermano a fine dicembre e poi fanno un mese fermi, e vi assicuro che giocare, cioè che avere il calcio mercato durante le partite è una crociatura enorme. D'accordo. soprattutto per noi tifosi delle squadre piccole, che il calcio mercato lo subiamo solo perché ci veniamo saccheggiati, sì, che vengono saccheggiati, certo. E non perché pensiamo di poterci rafforzare. Allora, la Serie B ha fatto una cosa intelligente: si gioca durante la vacanza di Natale, vedi le partite, vai allo stadio, e poi il calciomercato quando non si gioca, che è tutta un'altra storia. E poi Natale, insomma, a Palermo ci sono 18 gradi, insomma, si potrebbe giocare anche in ottobre. Io vivo a Verona, però. Ah, okay. Stesso clima. Sì, stesso clima. Domani credo giochino il pomeriggio, martedì, sì, credo giochino il pomeriggio a Verona. Grazie Andrea. Claudio. Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera, io sono di Verona anch'io e non sono d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso. Prego. In quanto riguarda, mi sentite? Cioè, sì, cioè che a Verona fa freddo e a Palermo fa caldo, è questa la parte. Ma scherziamo, il discorso del freddo c'è, cioè, però portate pazienza, io ho sentito tante volte, cioè, che abbiamo degli stadi obsoleti, sarà anche vero, però che si risolva la questione degli stadi e la questione di giocare a dicembre mettendo a posto gli stadi, per me questa è una gran cazzata, perché ho sentito tantissime volte anche dire che la colpa di quello che succedeva negli stadi era dei tifosi, quando abbiamo visto che fuori dagli stadi, ok, le cose succedevano fuori dagli stadi. Abbiamo preso ad esempio la Spagna per tanti anni e poi abbiamo visto quello che è successo in Spagna, cioè veramente mettiamo un po' più di ottimismo. Secondo me i giocatori sono stati giocatori che sono arrivati ad avere il discorso di fermarsi a dicembre e da lì non si muoveranno, sì, più. Sì, l'abbiamo detto, okay? Trattativa perciò, sindacale. Se vogliono prenderci in giro, ci prendiamo in giro, ma anche in Germania, tolti i 3-4 stadi più grossi, e io ci sono stato. Non è che si naviga in mari di oro, cioè, questa cosa dei calciatori, io sono convinto che anche se non hanno problemi economici, per cui le eventuali Maldive a gennaio che costano meno non sarebbero chissà quale svolta per le loro tasche. Dobbiamo aprire un'agenzia di viaggi, appunto, perché credo siano abbastanza fortunati da potersi permettere anche il prezzo pieno di Natale e Capodanno di altissima stagione. Però credo che in generale io non penso che ci sia un veto assoluto da parte dei calciatori, nel senso che se poi ai calciatori gli dai invece che la settimana sotto Natale, gli dai la settimana dal 4 all'11 gennaio perché si ricomincia a giocare il 30, io non credo che i calciatori siano contrari. Non vedo. Non, chi è? Signor Tommasi dell'Associazione dei Calciatori? Pronto? Buonasera. Oh, presidente. Vi sento molto coesi in questo nuovo anno che sarà assolutamente molto positivo per il nostro gioco, al punto che non cambierei la rosa di tutti i convocati weekend con la rosa di nessun'altra radio. Ma questo però l'ha già detto, l'anno scorso, volentieri un'altra volta. Grazie presidente. Bene, grazie. Pensi inseguiamo Pardo per 3 anni e mi ha già fatto una promessa molto positiva e scioccante. Cosa? Che Pardo, cambia telefono, no? Pier, mi hai promesso che entro la prossima diretta televisiva ti taglierai la barba. Sì, non ho la barba, presidente, però so che ma lei... la forza del nostro gruppo coeso è proprio questa. Anche se non ha la barba, per il suo presidente se la taglierà lo stesso. Perfetto. Adesso mettiamo su Twitter la foto, Come dice? Mettiamo su Twitter la foto. Mettiamo tranquillamente senza la barba. Twitter il Pardone con la foto. Sì. E allora, per il suo presidente, che nella storia del calcio è riuscito a vincere più di tutti, e quindi per me stesso, tutti insieme. Sì, ma dobbiamo farla sempre stavolta. Urra! A dire la verità, sento un po' Moscetto Pardo. Come io sono l'unico, ha quella carica del nostro. Ma sono l'unico, presidente. Adesso non vorrei, no, sono l'unico, no. Comunque, anche Capuano stava dando un fattivo contributo. Però dico, mi sono. Caro Pardo, la forza del nostro gruppo è che nessuno è escluso dal gioco. Abbiamo assolutamente possibilità enormi di sostituzione. Sì, difatti oggi non c'è Genta, che l'abbiamo lasciato in ferie e andiamo in onda. Troveremo, mi auguro, perché è un ragazzo molto coeso. No, non è la mela marcia. Non è assolutamente la mela marcia. Chi è la mela marcia, presidente? Chi è la mela marcia? Non mi interrompa, Pardo, sennò poi non facciamo più le nostre belle trasmissioni. Perfetto. Mi ascolti? Noi abbiamo delle possibilità enormi di sostituzione. Se per esempio El Shaarawy dovesse malauguratamente infortunarsi, sarà uno del gruppo a sostituirlo anche in famiglia. E se sua moglie non dovrà neppure preoccuparsi. Sì, non credo sia sposato. No. Ma la forza del nostro gruppo coeso è proprio questa. Presidente, anche c'è se traffico. Non è sposato, per il suo presidente si sposa lo stesso. E allora, il traffico. Diga. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando, cazzo? Io conduco la Zanzara, se volete parliamo di Froci. Ma io gli auguri di buon anno a quelli della redazione sportiva non li faccio, va bene? Un abbraccio. Tutti convocati. Era il nostro grandissimo Andro Mercu. Non era Silvio Berlusconi. Berlusconi. Non lo era. Intanto ha segnato anche il Chelsea, con Willian. Chelsea 1-0 sul Watford, 1-0 il Manchester United contro lo Yeovil, partita praticamente finita. 1-1 tra Valencia e Real Madrid. Io non so se hai sentito e hai visto il video motivazionale. Sì, l'ho visto. È bellissimo, spettacolare. Meraviglioso del Valencia, che aveva preparato Valencia. Per dire che era possibile battere questo Real Madrid. E per ora, insomma, Bale ha avuto una palla gol clamorosa un paio di minuti fa, ma insomma siamo 1-1. Sì, il primo tempo si sono picchiati, hanno protestato con l'arbitro, ne hanno fatti di tutti i colori. A proposito di spirito natalizio, adesso è una bella partita. Fammi salutare Fabio Parisi, agente FIFA che gira il mondo, l'Europa. Buongiorno Parisi, buon pomeriggio anzi. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Fabio. Beati loro che giocano, noi siamo qui ad aspettare con impazienza che riprenda il nostro campionato. Parlavo prima anche con Carlo Laudisa, si sono mossi fin qui quelli alle spalle delle grandi, poi da domani verificheremo se è cambiato qualche rapporto di forza. Hai questa impressione? Cioè che tra Napoli, Inter, Milan, con questo miraggio del terzo posto, poi il mercato abbia spostato qualcosa? Questo non lo so, bisogna sarà il campo che dovrà dirlo, perché qua si parla sempre, abbiamo visto, abbiamo brutte esperienze, si parla di nomi, ma con le figurine non si vincono le partite, si vincono con i giocatori veri che sul campo corrono. Quindi adesso bisognerà vedere un attimino sul campo, come dicevo prima, chi sarà in condizione, chi non sarà in condizione, chi si integrerà nella rosa, chi non lo farà, chi porterà il suo apporto. Qualche mossa anche abbastanza importante è stata fatta. Sì, meglio Cerci o meglio Podolski? Bella domanda. Sto per Cerci, perché è italiano e quindi sicuramente farà meno fatica a inserirsi, farà meno fatica a capire il calcio italiano, farà meno fatica a capire tutto. Pensavo stesse cercando la busta di riserva. Ho fatto un sondaggio su Twitter, per carità non è un campione statistico, però hanno risposto 500 persone, 80% Podolski, abbastanza, o c'erano più interisti, non lo so, in rete, però 80% mi sembra quantomeno che sia una valutazione, insomma, che ci sia partita. È chiaro che la storia di Podolski è una storia superiore rispetto a quella di Cerci, su questo non ci sono dubbi, però è anche vero che nelle ultime stagioni Podolski ha fatto un po' fatica. C'è un po' di ripresa comunque, almeno nella percezione del calcio italiano all'estero, insomma, nella disponibilità di giocatori. Adesso vedremo se Shaqiri veramente firmerà. Shaqiri, insomma, giocatore, è uno dei grandi prospetti in giro per il calcio europeo. Insomma, stiamo recuperando qualche posizione. Valencia vince 2-1, ecco, ho detto qui tutto, il 65esimo, a questo poi punto. Adesso lo recuperiamo, il video motivazionale lo recuperiamo. Fabio, stiamo recuperando posizioni come appeal, dico, come immagine internazionale? Lentamente, molto molto molto lentamente, devo essere sincero. Io ormai sono 25 anni che faccio questo lavoro, mi ricordo che all'inizio io ho lavorato molto con Francia, con l'Inghilterra, con l'Olanda. Mi ricordo che una volta parlavi a un calciatore olandese, un calciatore francese di venire in Italia in qualsiasi squadra, non ti diceva neanche qual era la squadra, ti diceva prenotami l'aereo che arriva. Oggi purtroppo gli stessi calciatori considerano il calcio italiano un calcio minore e preferiscono andare in squadre, diciamo, di minore importanza e di minor blasone, ma che giocano in leghe tipo la Bundesliga o la Premier, che hanno un appeal completamente diverso. E questo è una cosa che è un dato di fatto oggettivo. Noi vediamo che, cioè, i giocatori che escono dall'Italia, cioè che escono dalla Premier, vengono in Italia e fanno male. Altri giocatori che escono dalla Premier vanno nell'MLS, non è che escono dalla Premier e vanno, se l'Arsenal, il Chelsea, il Manchester United mandano via dei giocatori, o vengono in Italia o vanno in MLS negli Stati Uniti. Sì, anche perché la prendono 25 milioni di euro. No, come abbiamo visto Gerard. Sono tutte stupidate quelle che nell'MLS si guadagna tanti soldi. Nell'MLS si guadagna bene qualche giocatore, pochi giocatori. Gli stipendi dell'MLS, a differenza di quelli italiani e europei, sono pubblici, basta andare sul sito dell'associazione calciatori americani, certo. E gli stipendi sono pubblici, certo, ufficiali, quindi la media dei calciatori dell'MLS di guadagni è molto bassa. Però non è questo di cui vogliamo parlare che sono venuti dei nomi, sono venute delle figurine e le figurine sono andate anche nell'MLS, quindi se il paragone tra Italia e MLS non c'è da stare sicuramente tranquilli, ecco, certo, qua. Sai che ha usato belle parole nei confronti del calcio italiano, dell'Inter in particolare, Matteus, sì. Che ha detto Podolski è sempre scappato dalle situazioni difficili, adesso l'Inter è una squadra mediocre e lui ha fatto la scelta mediocre. Indimenticato Matteus, squisito, ex idolo dei tifosi dell'Inter, così all'Inter, no, sì. Non so se ex, credo ancora, perché ancora per poco, cioè, quando domani leggeranno tutti questo giudizio spassionato sull'Inter di oggi, secondo me, insomma, qualche riflessione si farà. Tra le figurine c'è anche Sneijder, Fabio, se dovesse arrivare alla Juventus, o è un giocatore che comunque garantisce ancora un salto di qualità? Sai, la Juventus è un discorso completamente diverso. La Juventus ha un telaio solido, i giocatori, un bello zoccolo duro di giocatori e qualche inserimento per migliorare, non per risolvere dei problemi. Se un giocatore deve venire per risolvere dei problemi, deve essere un giocatore di caratura importante, deve essere un giocatore motivato, deve essere un giocatore pronto a inserirsi subito. Naider è un giocatore che conosce il calcio italiano come Cerci, e andrebbe nella Juventus non a risolvere i problemi. Cioè, se Naider pensa di andare alla Juventus e dire io faccio il titolare, sono meglio di tutti quelli che ci sono, secondo me la Juventus farebbe bene a non prenderlo. Se Naider invece va alla Juventus con le motivazioni per dire perfetto, mi metto a disposizione dell'allenatore anche per giocare 5 minuti, 10 minuti o mezzo tempo, una partita tra Champions League, tutto quello che c'è, insomma è una cosa sì, completamente diversa. Perché la domanda che ci stiamo facendo è una volta... Anche se nel calcio di oggi secondo me le motivazioni contano tantissimo. Sì, la domanda che ci stiamo facendo è: una volta che arriva Sneijder, chi in quel centrocampo passa almeno per il campionato nel ruolo di riserva tra Pirlo, Marchisio, domani Allegri comincerà. A me Sneijder passa nel ruolo di riserva, passa nel ruolo da titolare a Galatasaray e riserva nella Juventus, secondo me. Figurina ingombrante quella di Sneijder da tenere in panchina, questo dice il passato. Bisogna stare attenti a prenderlo, perché l'ho detto 30 secondi fa. Sì. Sneijder viene e dice: io non mi interessa, vengo alla Juventus, mi sta bene fare un minuto, mi sta bene fare dalla panchina. Questo, se invece arriva a Milano e la moglie comincia a twittare di qua e di là, lui comincia a dire voglio giocare, sono più bravo degli altri, potrebbe rompere un equilibrio. La moglie twitterà e sarà comunque un bellissimo vedere, ma questa è un'altra considerazione. No, a parte le battute, da questo punto di vista può essere quasi rischioso, al di là del fatto che io credo che l'arrivo sia soprattutto in chiave Champions, perché insomma io credo che se la Juve veramente fa questo però lui colpo non può giocare, sì, però allora, certo però sono, devo essere franco, e questo credo che lo sappiano benissimo tutti, cioè di quanto aumentano le possibilità della Juventus di vincere la Champions League con Sneijder o senza Sneijder? No, ma anche perché Sneijder non gioca. Sì, no, è chiaro, non gioca, però quindi zero, c'è l'effetto rimbalzo. No, però favorisce la rotazione. Lui non gioca, non può neanche giocare in Champions League, certo. Quindi no. Sono delle altre situazioni. Però consente ai suoi compagni di squadra un po' come la razza dell'acquisto di Ronaldo l'anno che è arrivato al Milan a gennaio. Allora diciamo l'altro: di quanto aumenta con l'avvento di Sneijder le possibilità di Juventus di vincere il campionato e non vincerlo, secondo me, e invece di quanto aumentano i rischi di rompere un equilibrio portando un giocatore forte, indubbiamente, ma con una personalità abbastanza forte all'interno di un contesto che ha già dei campioni e ha già delle personalità forti. Ecco, questa è una domanda che secondo me si devono fare alla Juventus. Sì, riflessioni da fare. Io non faccio il manager della Juventus, non faccio il direttore sportivo della Juventus, faccio un altro tipo di lavoro, siamo qua, quindi non sta a me fare dei giudizi, un giudizio così spassionato di una persona che vede tante partite di calcio. Ecco, certo, tu che conosci bene la realtà francese, oggi ne abbiamo parlato prima, c'è Blanc, ha annunciato, Lavezzi e Cavani si sono comportati malissimo, il loro comportamento è assolutamente inaccettabile, due partite senza convocazione, fuori da anche dagli allenamenti della prima squadra per una settimana, la multa, poi vedremo se andare avanti, c'è chi dice lo Sceicco può tranquillamente farli giocare per sei mesi nel giardino di casa sua, oppure non può... solo sei mesi, anche tre anni. Sì, oppure può anche decidere che i tempi sono cambiati, c'è da dare un segnale all'UEFA. Secondo te come vanno lette queste parole qui? Ripeto, stiamo parlando in assoluto di una società che non ha assolutamente problemi a tenere in macchina foderosa in tribuna per sei mesi, un anno, fino alla fine del loro contratto, questi giocatori. E questo è un dato di fatto. È una società che è stata vessata, tra virgolette, giustamente o a torto, questo non sta a me a dirlo, dall'UEFA per tutti i problemi, fair play, è stata messa queste altre finanziarie, tutte queste altre cose. Adesso forse dall'UEFA pretende un pochino più di rispetto di questa situazione. È chiaro che se ci sono delle regole, le regole bisogna rispettarle, questo è un dato di fatto, insomma. Grazie Fabio. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, grazie ciao. A Fabio Parisi. 71 minuti 1-2, 2-1 per il Valencia sul Real Madrid. Valencia che è andato vicinissimo, a un centimetro dal terzo gol, ancora con Barragan, che poi è il giocatore che aveva segnato il pareggio. Tanto ha vinto 2-0 il Manchester United e è sul 2-0 anche il Chelsea in FA Cup. E c'è che ha fatto una parata incredibile, pare. C'è che ha fatto una parata incredibile. Andremo a cercarla. Torniamo subito. Cittadini di Samp e Doria, domani tutti allo stadio di Roma, con amore per lasciare ai laziali un bel dolore. Ai con l'H, che dolore fa male. Tutti convocati. Questa è la musica del video motivazionale del Valencia. Del Valencia. Me la fai sentire, Pietro Lacorte? Per ora. Un po' più motivazionale di Ipi Purrà, no? Vabbè, cioè, è un genere diverso, diciamo. Ipi Purrà è un po' più neomelodica, è un po' più denoantri. Però insomma, questo è il famoso aneddoto di Guardiola che fece vedere nello spogliatoio dell'Olimpico prima di Barcellona Manchester United, la partita che iniziò di fatto la saga del Barcellona di Guardiola. Fece vedere una clip del film Il Gladiatore, un po' lo stesso genere. Sì, Gaetano dalla provincia di Caltanissetta, 800 24 00 24. Noi stiamo qui ancora mezz'ora, Gaetano, eccoci. Sì, ecco, buonasera, grazie per aver chiamato. Prego. Ciao. Ecco, intanto complimenti per la trasmissione, perché approfondite diverse tematiche. Voglio dire, non c'è calcio in TV, però vi seguiamo almeno. Grazie. Questo sempre, anche ecco, quando c'è calcio in TV. Prego, Gaetano. No, volevo un attimino puntualizzare un po' quello che è la crisi del Catania, visto che c'è un hinterland di quasi 2,5 milioni di abitanti, e c'è un dramma calcistico che stiamo vivendo, insomma. E poi la prova che molte volte gli stranieri non sono la panacea di tutti i mali, perché stiamo vedendo un po' quello che è il fallimento di un progetto con tutti questi argentini che sono scesi a Fontanarossa, che hanno veramente portato giù il blasone della squadra catanese. Solo questo. Ti sarebbe piaciuto Cambiasso, perché si è parlato tra le tante suggestioni di questi giorni anche di Cambiasso allenatore a inizio carriera sulla panchina del Catania? Sì, pare, allora io leggo un po' i giornali, mi documento, pare che sia la GEA che gestisce un attimino quello che sia il mercato in entrata, ma anche quello degli allenatori. Cambiasso poteva essere una scommessa, come lo è stato nel passato Mihajlovic e altri allenatori che adesso stanno facendo benissimo anche all'estero, vedi Simeone, insomma, nell'Atletico Madrid. Però voglio dire, forse sarebbe il caso di invertire la tendenza e di iniziare un po' a credere ai nostri giovani e attingere dai vivai, insomma, e finirla con questi stranieri che, guardi, non riescono neppure a tirare i piedi in alcuni casi. Ho visto alcune partite veramente penose al Massimino. Devono fare la differenza. Sì, la differenza in generale non è semplice per le piazze assorbire la retrocessione in Serie B, ma per diciamo tanti motivi, economico prima di tutto. Che sinceramente, se guardiamo gli ultimi anni della storia del Catania, che sono stati anni irripetibili dal punto di vista dei risultati, gli argentini hanno contribuito in maniera massiccia ai successi di questa squadra. Insomma, non è che ce lo possiamo dimenticare. Però chiaramente adesso non più, rimanere, ecco, se c'è gente che non vuole rimanere, rimane infatti. Un po', ecco, perché non vuole forse fare la Serie B, insomma, che vada via, e magari viene gente motivata. Io come modello vedo il Carpi, squadra sconosciuta e che con molti giovani sta facendo veramente la differenza, gioca bene. No, ma questo senz'altro, premesso che non c'è una regola unica, però credo che la Serie B sia un campionato dove è abbastanza scientificamente dimostrato, conti di più la motivazione, conti di più veramente il sudore, l'impegno della qualità tecnica. No, ma è anche bisogna fare uno sforzo adattamento alla categoria completamente diverso. È anche dimostrato che chi scende difficilmente sale il primo anno. Lasciamo stare le grandissime, la Juventus, il Napoli, anche, gli anni di Calciopoli. Esempi, guardate il Toro, ci ha messo 3 anni, se non sbaglio, a risalire. Ottimi esempi di calciatori, per esempio, che hanno segnato molto in Serie B, i classici bomber di categoria, che poi in Serie A invece, quando aumentava il livello di magari meno palle gol a disposizione e difensori di maggior livello tecnico, facevano fatica. Quindi no, è un campionato sicuramente complicatissimo, con delle dinamiche tutte sue. Ho sentito Marco Lin, mi sembra motivato, ma insomma è chiaro, per lui è veramente una grandissima occasione, una grandissima opportunità. La piazza è magnifica, veramente magnifica, enorme, appassionata, calda, con con tutti certi momenti quasi troppo, nel senso che se mi passate la battuta, nel senso che Catania è uno di quei campi dove storicamente negli anni in Serie A andare a giocare in certi momenti era complesso, nel senso sì, che lo stadio lo sentivi, quindi che ci ha perso l'opportunità di sognare fino all'ultimo uno scudetto nell'anno poi del gol di Ibrahimovic. Intanto c'è l'assalto all'arma bianca del Real Madrid, 12 minuti alla fine, Valencia avanti 2-1. Saluto Paolo Condò. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti, buon anno. Come va? Auguri, eccolo lì. Ma sei stato l'anno del matrimonio di Pardo, il 2014. Sì, cosa sarà il 2015? Cioè, il 2015 di che evento abbiamo bisogno? No, esatto. Era tipo la fine del mondo, in realtà, no. 11 ottobre 2014. Ma di solito dopo il matrimonio c'è qualcos'altro. Sì, però, no, cioè, il divorzio. No, scherzo, una battuta, non resisto alle battute. Salutiamo la signora. No, ci mancherebbe, grande entusiasmo. No, volevo dire che il programma è ormai completamente nelle mani della lobby triestina, perché da Andro a Condò proprio ormai ci siamo consegnati mani e piedi a questa lobby e poi potremo trasferirci a Madrid, Paolo, dove oggi non c'è soltanto la parte di tifosi del Real che sta assistendo a questo finale di Valencia Real Madrid, ma all'ora di pranzo è successo qualcosa di meraviglioso. Olé! Poco más de 7 años estábamos despidiéndonos, todos teníamos la esperanza de que fuera un hasta luego y bueno, hoy estamos aquí, por fin. Para mí es un día muy especial, muy emocionante. No quería extenderme mucho, no quiero hacer esperar demasiado a la gente que está fuera pasando frío. Es decir, que para mí es un día feliz. Sé que el equipo es muy competitivo, es lo que me gusta, he sufrido desde fuera, me he emocionado con las victorias del equipo, he sufrido con las derrotas. El año pasado es un ejemplo de lo que es este club, hemos disfrutado, nos han hecho soñar, nos han quitado algo que teníamos en la mano en el último minuto, pero eso nos da más fuerza para seguir. Así que encantado de estar de vuelta, siempre es bonito volver a casa. 45.000 persone all'ora di pranzo, senza la partita, allo stadio. Ci possono andare, Paolo, solo per il ritorno del figlio al prodigo, il Niño Torres. Beh, naturalmente è una storia di affetto stupenda, credo che sia un numero paragonabile a quello famoso di Maradona ai tempi del Napoli, no? Certo. Quando venne al San Paolo a presentarsi, però quella era una cosa che aveva tutt'altre premesse, era il più forte giocatore del mondo che arrivava in una città dove non era mai stato vinto uno scudetto, quindi c'erano delle aspettative enormi. Io non so onestamente che aspettative possano avere i tifosi dell'Atletico nei confronti del Niño, che ha fallito anche al Milan la possibilità del riscatto, però e quindi questo è un affetto rivolto al passato. C'è stata una bellissima frase di Torres oggi, nella quale ha detto: un giorno mi spiegherete cosa ho fatto, cosa vi ho fatto per meritare tanto affetto? Perché diventò tifoso dell'Atletico per colpa o per merito, fate voi, del nonno, di cui non ricordo il nome, ce l'ho scritto da qualche parte. Era l'unico bambino colcio nero in una classe tipo di 18-19 bambini che erano tutti del Real Madrid, quindi ha vissuto veramente l'essere colcio nero nell'anima ed essere all'opposizione. Facendo una battuta possiamo dire che insomma finalmente la Liga si prende gli scarti del campionato italiano. Hai ragione, perché noi siamo cinici, noi siamo cinici, sì. Paolo, ci siamo asciugati la lacrimuccia e qualcuno ha detto: oh, è arrivato a Madrid un ex giocatore, ma non ex dell'Atletico, ex in tutti i sensi, cioè ex giocatore, perché oramai non ha più quasi nulla da dare sul campo. Ma sai dirlo, sì, cioè, poi sembra un po' persecutorio ripeterlo, perché avevamo sostanzialmente fatto questo discorso anche quando era stato acquistato dal Milan, che poi sono sempre discorsi difficili, no? Perché ciascuno di noi appartiene a un'organizzazione che deve vendere giornali o audience televisiva, quindi andare a dire al tifoso del Milan: guarda che hai preso una gran pippa, c'è uno che non la vede più, sì. Era, non fa vendere copie. Non fa vendere copie, no. E non fa audience televisiva. Ma soprattutto però ti espone, comunque... Paolo, ti espone alla, sì. A quelli che poi hanno la registrazione o prendono il pezzettino. Certo, quindi certo. Il dubbio, sì, però, insomma, il dubbio in certo, c'era. In un certo senso è anche il nostro compito quello di esporsi alle brutte figure. Cioè, insomma, il giornale mi manda in giro per il mondo a vedere calciatori. Più o meno, poi le mie topiche le prendo anch'io, però più o meno se uno farà bene o se uno ha già dato quello che poteva dare, dovrei essere in grado di dirtelo. Sì. Oggi Paolo, guardando quelle immagini, io facevo una riflessione, la prima che mi è venuta poi da interessato soprattutto delle cose nostre, di casa nostra, cioè guardando quelle immagini io ho pensato... che non è mai esistita una corsa tra Inter e Milan per Cerci, cioè era troppo il valore aggiunto per l'Atletico Madrid di riportarsi a casa Torres, qualunque Torres in qualunque condizione, ex giocatore oppure con ancora allora, dei margini. C'è da dire che noi non sappiamo nulla, ma proprio nulla, perché non è stato scritto e detto nulla dei termini della questione, dei termini economici di tutto questo complesso trasferimento, perché se ho capito bene Cerci appartiene a un fondo. Sì, sì. Torres appartiene per metà a un fondo, per metà all'Atletico Madrid. Poi un giorno ci diranno anche quanto è costato Torres al Milan, che l'ha dovuto rispettare su due piedi. Abbiamo a un certo punto pubblicato questa cosa, ma sì. Tutti quanti, non c'è. No, chi è più bravo, hai ragione. Chi è meno bravo. Aspettiamo con ansia il prossimo bilancio del Milan. Allora, il Milan, che lo doveva fare per motivi regolamentari, ha acquisito la proprietà di Torres dal Chelsea e poi l'ha girato all'Atletico Madrid in prestito. Ecco, ma questo acquisito immagino che abbia un costo. E nessuno proprio ha minimamente parlato di questo posto. Tanto sta succedendo di tutto a Valencia. Sì, poi aspetteremo il bilancio per leggere, perché ovviamente c'è di mezzo un fondo, ci sono delle regole, c'è qualcuno che si è chiesto, ma il Milan sta pagando, pagherà una terza parte, cosa che in Italia sarebbe assolutamente proibita. Ma non solo in Italia. Ma non solo in Italia. Dovunque. Ovunque, tranne in Spagna, in Portogallo, perché lì i fondi... La FIFA è stata molto chiara nel suo ultimo... Poi gli esperti del settore dicono che le regole escono dalla porta e rientrano dalle finestre, cioè almeno le gabole escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Però comunque un procuratore di chiara fama mi ha detto non più tardi della scorsa estate: il calcio lo sta rovinando la finanza, nel senso che ormai la grande maggioranza dei trasferimenti fra squadre, di giocatori fra squadre, non rispondono a criteri tecnici, ma rispondono a criteri finanziari. E questo, secondo me, al di fuori ovviamente di quei 6-7 club al mondo che possono permettersi il meglio perché hanno i soldi per farlo, sta diventando una grande verità. Noi possiamo promettere che se incrociamo Galliani in queste settimane, se mai risponderà positivamente a un nostro invito, noi... paio di domande sulla questione Cerci Torres gliela faremo, sperando che lo facciano anche altri. No, ma penso che lo abbiano già fatto tutti quanti. Se non è evidentemente senza risposta. Evidentemente senza risposta. In questi giorni di storie di grandi amori che nascono, che muoiono, c'era Gerard, c'è Gabbiadini, accolto da 600 tifosi all'aeroporto di Napoli. Quindi nella classifica degli aeroporti, Capodichino 600, Milano Linate 150 per Podolski, tifoso juventino. Cerci credo sia stato accolto da un paio di servienti del Milan, perché poi si gioca anche questa sfida a distanza, non è stato credo casuale. Abbiamo il traffico, Paolo, se hai un minutino di pazienza. Traffico. Sono Zdenek Zeman e vi faccio gli auguri di un 2015 felice. Tutti convocati. Io vorrei essere a Valencia, 2-1, 88 minuti, negli ultimi 30 secondi il Real Madrid è andato a 2 centimetri, cioè un centimetro una volta, un centimetro l'altra, dal gol del pareggio, ma resiste ancora il 2-1. Mi fate sentire ancora quella musichetta motivazionale, non Berlusconi, non Berlusconi, sentiamo anche Berlusconi, i Pipurra, no, io voglio quell'altra, voglio quella del Valencia, senti qua. immagini, Pierre asserragliati nel fortino con quelli del Real Madrid che attaccano e con nelle orecchie questa musica. Sì, mi pare che stia funzionando. Innanzitutto funziona perché il Valencia è una buona squadra. Poi devo dire che questa partita l'hanno preparata veramente appunto come una finale, no? E quindi fra fattore campo e poi forse c'è anche un Real un po' appesantito dalle vacanze, insomma, era un'amichevole quella col Milan, sicuramente l'hanno persa male, adesso sono a un minuto da una sconfitta, anche se insomma chi sta vedendo la partita sa che il Real poteva anche vincerla questa partita, senza giocare palle gol da una parte e dall'altra. Bale ne ha avuta una clamorosa sull'1-1, però insomma rispetto alla squadra invincibile di un mese fa magari qualcosa di diverso. Paolo, ti ha appassionato Paolo Condò questa settimana delle grandi storie d'amore? C'è stato il divorzio annunciato tra Gerrard e Liverpool? Beh, sai, quella è stata una storia che è finita tutto sommato bene. È finita bene nel senso che Gerrard se n'è andato con molto stile una volta capito che probabilmente dall'anno prossimo in poi la maglia da titolare non sarebbe più stata così automatica. Io, a me piace questo tipo di giocatore, a parte che ho definito la sua maniera di interpretare la fascia da capitano quella più nobile che si sia vista nel calcio europeo in questi anni, e mi piace questo andar via un momento prima che ti dicano di andar via, sì, poi che ti mostrino in un'assemblea dei soci che sì, la porta d'uscita è quella. Il riferimento ovviamente non è casuale, è a qualche numero 10 di casa nostra che è andato avanti un paio di anni con la causa di separazione dalla Juventus. Non bello sicuramente, ma nemmeno bello. Chi firma un contratto di 10 anni di cui i secondi 5 sono da dirigente, oppure di chi saluta sperando sempre che arrivi la telefonata per il rinnovo di un anno. No, comunque ribadisco, io penso che già essere una bandiera sia una cosa straordinaria, eccezionale, in un calcio che appunto parlavamo prima dei fondi di investimento, dei giocatori posseduti con i cartellini, posseduti dai fondi di investimento, dunque da soggetti terzi rispetto alle semplici società, chi invece per 20 anni sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai, come direbbe De Gregori, insomma secondo me merita certamente un plauso. Gerrard ha capito, ma Gerrard di fatto credo che la carriera a Liverpool di Gerrard sia finita con quello scivolone lo scorso anno contro il Chelsea. Sicuramente sì, è stata una conclusione letteraria, se vogliamo, della storia di Gerrard con il Liverpool. Detto che ha vinto la Champions League, ha vinto una Coppa UEFA, insomma, quindi non si può certo dire che se ne vada senza vittorie. È chiaro che non aver portato a casa nemmeno la Premier che ormai avevi in mano, oltretutto per colpa tua, cioè per colpa tua, per una scivolata che hai avuto la sventura di capitare a te, rende tragico quasi la figura, tragica nel senso greco, per fortuna, no? Nel senso, certo. Nel sì. Senso che, ecco, sanguinoso, rende tragica la figura di Gerrard, ed è tanta manna per noi che raccontiamo queste storie, insomma qua ci puoi veramente intingere il pennino nell'inchiostro e scrivere quello che vuoi, perché sì, storia bellissima, atroce ma bellissima, sì. Intanto siamo negli ultimi 50 secondi di Valencia Real Madrid. Io, chiarissimo Pier, so che tu sei amico di Carletto Ancelotti, ma sono qui Ancelotti sta tifando Valencia. Anche Ancelotti sta tifando Valencia. Se stasera il Barcellona vince torna primo, torna primo in classifica. Avrà comunque una partita da recuperare. Io penso che la differenza fra Real e Barcellona sia sensibile, quindi io credo che il Real sia favorito, anche se poi chiaramente con quel tridente lì del Barça, e poi non dimentichiamoci appunto che il Barça non ha avuto Suarez nei primi 3 mesi della stagione, quindi il Real Madrid fa bene a stare molto attento. Però io credo che sia comunque la squadra destinata a vincere la Liga quest'anno. Certo, questo dà grande spinta al Barça che giocherà contro la Real Sociedad. Mancano 15 secondi, che facciamo? Andiamo in interconnessione? No. Intanto salutiamo Paolo Condò. Che fai? Al 92-50? Lo teniamo qui a seguire il risultato finale. Adesso c'è un cross, c'è ancora sul secondo passo. È dentro praticamente nell'area piccola. No, palla fuori, senti qua. Siamo oltre il 93esimo, cioè. Ma adesso Guagnini ci autorizza, dai, a fare gli ultimi 4 secondi di diretta, vai, c'è l'ultimo calcio d'angolo per il Real Madrid. Fisco stavolta, non Cristiano Ronaldo ma Rodrigo. Fischia tre volte Kiel Manzano, passiglio d'onore al Real Madrid al Mestalla, ma anche due schiaffi del Valencia, ecco, che abbatte la capolista, regala una sconfitta ad Ancelotti dopo 22 vittorie consecutive, riapre la Liga e dimostra che una nuova grande sta arrivando. Il Valencia prende il quarto posto con coraggio, con sofferenza, con mentalità, perché avanti c'era andato il Real Madrid, poi Otamendi e Barragan hanno regalato 3 punti e c'è altra dimostrazione della qualità e dell'intensità di questo campionato. Siamo tutti tifosi del Valencia. No, io sono tifoso del Valencia oggi. Sì, io spero. Allora, questa domenica in cui i nostri sono alle Maldive, io sono tifoso del Valencia. Paolo, io vi dico che in questo momento stanno aprendo sulla strada fuori Mestalla per arrivare al centro una quantità di prosciutti, che è una quantità di prosciutti che mente umana non e può quindi non si può non essere del Valencia in questo momento. Non si può non essere del Valencia. Però noi siamo qui, si sta imbarcando per Valencia. In passato abbiamo dato. Ciao Paolo, grazie. Siamo ai massimi storici di peso, volevo dirvelo. Ciao Paolo, ciao. Grazie a Paolo Condò. No, meravigliosa, meraviglioso. Bellissimo pomeriggio che ci ha tenuto compagnia, perché noi poi dobbiamo aspettare domani sera per ritrovare il nostro calcio con una partita che non è banale, Pier. Ti faccio sentire Pioli Mihajlovic. Io ho indicato sicuramente la Sampdoria come la sorpresa della stagione. Per quanto riguarda la Lazio, sono sempre stato molto fiducioso e molto positivo sul nostro cammino, perché ho imparato da subito a conoscere i miei giocatori e i valori che hanno. È una partita importante, ripeto, noi siamo arrivati qui in questa posizione perché lo meritiamo, perché l'abbiamo meritato e dobbiamo continuare a dimostrarlo. Tra l'altro giochiamo davanti ai nostri tifosi, ai quali faccio un invito: venite numerosi, dateci la spinta, sostenete i giocatori. Se magari qualcuno sta già pensando al derby, prima c'è la Sampdoria. Per me tornare a Olimpico, giocare contro la Lazio è sempre una bella sensazione, perché non nascondo che io sono tifoso della Lazio, perciò non l'ho nascosto mai, però domani vorrei dargli un dispiacere, quello senz'altro, perché devo guardare la mia squadra e sono convinto che abbiamo carte in regola per metterli in difficoltà. L'anno scorso abbiamo perso 2-0 giocando malissimo e siamo riusciti a subire anche un gol con un uomo in più. È sicuramente una delle partite più brutte che abbiamo fatto insieme con quella a Bergamo, però penso che i ragazzi, il gruppo è cresciuto molto rispetto all'anno scorso, che questo non si ripeterà. Poi se si dovesse ripetere, sul cazzo loro. Se perdiamo non ci sono più giorni liberi, va bene? Cos'è che ha detto? Sono fatti loro. No, beh, bellissima domani. Sì, perché è la vera sfida per il terzo posto. Poi noi parliamo di Juve, Inter, parliamo di tutto quello che vogliamo. Domani giocano la terza contro la terza, insieme al Napoli. Ma tra l'altro giocano due squadre che non sono lì per caso, insomma, anche perché ovviamente dopo 16 giornate non puoi essere lì per caso. Io credo che la Lazio abbia ancora un bel margine di crescita. E detto questo, poi, secondo me, se il Napoli fa il Napoli, arriva terzo. Sì, però Lazio, che è forse la squadra più sottovalutata di questo, sì, di questo pezzo di stagione. Non da me, perché tu considera che domani dovrebbe esserci Biglia, Candreva, Keita e Close in panchina. Sì, sì, ma è una squadra di livello altissimo, con Felipe Anderson che sta sbocciando, con una capacità di fare. De Vrij ha dimostrato di essere un giocatore pronto. C'era molta delusione dopo l'arrivo di Astori alla Roma, c'era un po' questo clima da derby, però poi De Vrij ha dimostrato di non essere certamente inferiore ad Astori. È una squadra che ha talento e che ha avuto anche parecchi infortuni, quindi ha questa posizione di classifica nonostante gli infortuni. Secondo me è un dato veramente molto molto incoraggiante, molto positivo. Poi ripeto, io penso che il Napoli sia di un'altra categoria fra quelle squadre lì, perché credo che abbia soprattutto nelle 38 partite più forza e più completezza, per cui insomma, se si mette a fare delle cose normali il Napoli e comincia a non perdere i punti con le piccole e cominciare da Cesena, secondo me è una squadra che potrebbe addirittura riaffacciarsi. Se davanti qualcuno dovesse bucare, il Napoli potrebbe anche riavvicinarsi, ma insomma, senza fare voli pindarici, secondo me almeno può arrivare terza tranquillo. Sì, io sono molto curioso anche di vedere cosa sarà della Samp nel prossimo mese, perché poi il mercato inizia domani. quella di domani è la prima Samp senza Gabbiadini, poi le risate li vedete tutti seri. Ai, con l'H. Ma poi vedremo cosa succede di Okaka, cosa succede di Muriel, cioè se questa Samp che abbiamo visto sarà la Samp che ci accompagnerà fino alla fine della stagione. Io non so che idea hai tu, io ho l'idea che se può Ferrero vende. Beh, insomma, Gabbiadini è chiaro che non era soltanto della Samp, è stato venduto a una cifra importante ma non clamorosa secondo me, però insomma era un'occasione probabilmente da prendere, quindi non... Che c'è? Sampdoria? No, devo dire che Mihajlovic da questo punto di vista per una garanzia, insomma. Ma anche Ferrero, va, ti dico la verità, perché poi alla fine bisogna distinguere, secondo me, il Ferrero macchietta, il Ferrero personaggio televisivo, il Ferrero battutista, cabarettista, dall'uomo di conti, che comunque ha razionalizzato i conti della Sampdoria, ha tagliato dei costi. Per ora le cose sta facendo bene. Certo, manca la controprova. Praticamente Ferrero non l'abbiamo mai visto dopo una sconfitta, ma per una sola partita contro l'Inter, ci poteva stare a San Siro all'ultimo minuto con qualche polemica, quindi una vera fase di crisi non l'abbiamo ancora conosciuta, no? Sì. E quindi per ora è tutto rose e fiori. Vogliamo lasciare un bel dolore ai laziali con quante H l'hai scritto nella tua vita? No, ma io... No, però è stato meraviglioso anche per la capacità di prendersi in giro, perché era legato al messaggio sotto. Tanto è vero, esatto. Non tira adesso, mi tiri su questo argomento, gli ho mandato un messaggio, ho detto è scappata un H, e lui ha detto pure tu non hai capito che c'era, perché sotto c'era la, no, il, come si chiama, c'era una foto nella quale si diceva che i professori studiato per far qualcosa nella vita. Intanto Lele Adani su Twitter ha scritto: ha deciso Otamendi, l'uomo che un certo Diego Armando Maradona fece debuttare nella selezione. Evidentemente non bisogna essere professori per capire che è un buon giocatore anche Otamendi. C'era Mustafi adesso per esempio in campo, no? Per tornare alla Sampdoria, cioè poi ci sono delle volte delle storie di giocatori che in determinati contesti riescono a fare molto bene e che si perdono in altri, ed è poi la speranza oggi della metà, o meglio del quarto colcionero di Madrid, che sogna che improvvisamente ci sia una bacchetta magica per cui semplicemente tornare al Calderon possa rendere il Nino un giocatore migliore. Abbiamo finito, Pier, a domani. Come funziona qui la settimana? No, qui funziona che siamo in onda da domani dopo il GR delle 14, sì. E poi torna il Carlo Genta, che e normale dalle 14 alle 16. Vabbè, poi io... se vuoi puoi anche restare qui fino a mezzanotte. Io potrei andare a Udine, però insomma... Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Fabio Cantadori, Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia. Noi torniamo con tutti i convocati weekend domenica prossima dalle 17, mentre da domani, dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta. Ciao. Ma l'uccellin che viene dal mare quante penne può portare? Può portarne solo 3, 1, 2, 3. Ambara, baci, cicocco, 3 civette, a prescindere sul uomo che faceva certe cose con la figlia del dottore che non si dice. A prescindere voglio fare un saluto a tutti i miei fans, a tutti i convocati weekend su Radio 26. 4. Ah sì?